Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Era stupefacente come i pirati avevano ripreso animo e come un certo colorito aveva fatto rivivere i loro visi. Poco dopo erano tornati a chiacchierare, tenendosi in ascolto di tanto in tanto, e non trascorse molto tempo che, non udendo alcun altro rumore, avevano ripreso in spalla gli arnesi e si erano rimessi in cammino. Era bello camminare all'aperto, lassù in cima. La nostra strada era un po' a mezza costa, perché, come ho detto, l'altipiano era leggermente inclinato a ponente. I pini, grandi e piccoli, crescevano radi, e anche tra i cespi di noci moscate e azalee, vaste radure si arroventavano nel sole fiammeggiante. Attraversando l'isola quasi da nord-ovest, come facevamo, ci portavamo da un lato sempre più prossimi ai contrafforti del Canocchiale, mentre dall'altro ci si apriva un panorama più vasto su quella baia occidentale, dove un tempo ero stato sballottato e avevo rabbrividito nella piroga. Raggiungemmo il primo dei grandi alberi, che, rilevata la posizione, risultò non essere quello buono. Così pure il secondo. Il terzo si ergeva per aria quasi 200 piedi, al di sopra di un macchione di arbusti. Era un gigante vegetale dal tronco rosso, largo quanto una capanna, e con così vasta ombra intorno che ci avrebbe manovrato un intero battaglione. Era visibile dall'alto mare, sia da levante che da ponente, e avrebbe potuto funzionare da segnale di navigazione su una carta. Ma non erano le sue dimensioni che impressionavano i miei compagni adesso. Era il sapere che 700.000 sterline d'oro si trovavano sotterrate in qualche punto sotto la sua vasta ombra. Il pensiero del denaro, man mano che si avvicinavano, si era ingoiato i loro precedenti terrori. I loro occhi fiammeggiavano, i piedi si facevano più svelti e leggeri, tutta la loro anima era tesa verso quella ricchezza, un'intera vita di gozzoviglie e piaceri che giaceva là, in attesa per ciascuno di loro. Silver arrancava grugnendo sulla sua stampella, le narici gli si dilatavano e palpitavano. Bestemmiava come un forsennato quando le mosche gli si posavano sul viso acceso e lustro, dava furibondi strattoni alla fune che mi legava a lui e di quando in quando girava verso di me gli occhi con uno sguardo assassino. Certamente non si dava la pena di nascondere i suoi sentimenti e certamente io leggevo il suo animo come in un libro aperto. Nelle immediate vicinanze dell'oro tutto il resto era stato dimenticato. La sua promessa e l'avvertimento del dottore ormai erano entrambi acqua passata e non potevo avere il minimo dubbio che non sperasse di mettere le mani sul tesoro, ritrovare la Hispaniola e imbarcarcisi protetto dalle tenebre, scannare ogni onest'uomo sull'isola e far vela, come aveva progettato fin da principio, carico di delitti e di ricchezze. Scosso com'ero da questi timori, stentavo a tener dietro al passo veloce dei cercatori. A coronare il tutto ero assillato dal pensiero della tragedia che doveva un giorno essersi svolta su quell'altipiano, quando quell'empio filibustiere dal viso paonazzo, morto a Savanna cantando e reclamando da bere, aveva in quel luogo trucidato i suoi sei complici con le proprie mani. Quel bosco, adesso così pacifico, doveva essere risuonato di urla, pensavo, e a questo solo pensiero mi pareva di sentirle risuonare ancora. Eravamo ora al margine della macchia. «Sotto, ragazzi, tutti insieme!» gridò Merry, e quelli che erano più avanti si lanciarono a corsa. E a un tratto, nemmeno 10 metri più in là, li vedemmo arrestarsi di botto. Un grido profondo si levò. Silver raddoppiò il passo, zappando col piede della sua gruccia come un ossesso, e un momento dopo, tanto io che lui, ci arrestammo bruscamente. Davanti a noi si trovava una vasta escavazione, non molto recente, perché i suoi fianchi erano franati e l'erba era germogliata sul fondo. In fondo si trovava un manico di piccone spezzato in due e assi di diverse casse da imballaggio sparsi qua e là. Su una di esse potei leggere impresso a fuoco il nome Tricheco, nome della nave di Flint. Tutto era chiaro all'evidenza. Il nascondiglio era stato trovato e svaligiato. Le 700.000 sterline erano sfumate. Mai ci fu al mondo un simile sconvolgimento. Ognuno di quei sei uomini sembrò come fulminato. Ma da Silver il colpo fu incassato quasi subito. Ogni pensiero dell'anima sua si era allungato verso quel denaro come un cavallo da corsa. Ebbene, si arrestò di colpo, tempo un secondo. Mantenne la testa a posto, recuperò il suo equilibrio e cambiò il suo piano, prima ancora che gli altri avessero avuto il tempo di rendersi conto della delusione. «Jim», mi sussurrò, «prendi questa e attento alla bufera». E mi passò una pistola a due canne. Nel contempo cominciò a spostarsi quietamente verso nord e in pochi passi ebbe messo la buca tra noi due e gli altri cinque. Poi mi guardò e scosse il capo come a dire: eccoci a una svolta brusca, tale e quale purtroppo pensavo anch'io. I suoi sguardi adesso erano del tutto amichevoli e io fui così disgustato da questi suoi continui mutamenti che non potei trattenermi dal mormorare. E così avete di nuovo mutato partito. Non gli fu lasciato tempo per rispondermi. I filibustieri, tra urla e bestemmie, si lasciarono scivolare uno dopo l'altro dentro la buca e cominciarono a scavare con le unghie, buttando man mano da parte le assi. Morgan trovò una moneta d'oro e la sollevò in alto con una scarica di bestemmie. Era un pezzo da due ghinee e se lo passarono di mano in mano per un quarto di minuto. «Due ghinee!» ruggì Merry, agitandole verso Silver. «Sarebbero queste le tue 700.000 sterline! Non eri tu l'uomo col fiuto per gli affari! Quello che non ha mai guastato nulla! Cialtrone! Testa di legno!» «Scavate dell'altro, ragazzi!» disse Silver con la più gelida insolenza. «Troverete qualche castagna e sarei l'ultimo a stupirmene, io!» «Castagne!» ripeté Merry con uno strillo. «Avete sentito, compagni? E io ora vi dico che quest'uomo sapeva tutto! Guardatelo, ce l'ha scritto in faccia!» «Ehi, Merry!» esclamò Silver. «Ti proponi di nuovo come capitano? Sei un bel arrivista, non c'è che dire!» Ma questa volta erano tutti dalla parte di Merry. Cominciarono ad arrampicarsi fuori della buca, gettandosi dietro occhiate furibonde. Una cosa osservai che pareva di buon augurio per noi. Tutti quanti si portavano dal lato opposto a quello di Silver. Così rimanemmo due da una parte e cinque dall'altra, lo scavo nel mezzo, e nessuno che osasse tirare il primo colpo. Silver non si muoveva. Li sorvegliava ben dritto sulla sua gruccia e sembrava il più impassibile di quanto l'avessi mai visto. Coraggioso, era coraggioso, non c'è che dire. Alla fine parve che Merry ritenesse che un appello avrebbe risolto le cose. «Compagni!» disse. «Eccoli lì, sono soltanto in due! Uno è il vecchio storpio che ci ha condotti tutti qui e ci ha messi in questo imbroglio! L'altro è quel lupacchiotto di cui voglio mangiarmi il cuore! Ora, compagni!» E alzava il braccio e la voce come chi intenda spronare a un assalto, ma in quel medesimo istante, pum, pum, pum, tre colpi di moschetto lampeggiarono dalla macchia. Merry cadde capofitto nella buca. L'uomo della benda girò su se stesso come una trottola e si abbatté lungo disteso su un fianco, restando secco, malgrado le contorsioni, e gli altri tre si girarono e partirono di gran carriera. In un battibaleno, Long John aveva scaricato due colpi di pistola contro Merry che si dibatteva, e dato che quello aveva girato gli occhi in su verso di lui nell'estrema agonia, «George», disse, «direi che ora siamo pari». Nello stesso momento, il dottore, Gray e Ben Gunn si unirono a noi, sbucando dai cespugli di noci moscate. «Avanti!» gridò il dottore. «Svelti, ragazzi! Dobbiamo tagliar loro la strada verso le scialuppe!» E partimmo di corsa, affondando a volte nei cespugli fino al petto. Potete immaginare se Silver fosse ansioso di tenersi allo stesso nostro passo. Lo sforzo che fece quell'uomo saltando sulla sua gruccia fin quasi a farsi scoppiare i muscoli del torace fu tale che nessun uomo valido avrebbe potuto compierlo, a detta dello stesso dottore, e non di meno era già rimasto una trentina di passi indietro ed era sul punto di soffocare quando giungemmo sul ciglio del pendio. «Dottore!» chiamò. «Guardate là! Niente premura!» E davvero premura non ce n'era. In una zona più aperta dell'altipiano avvistammo i tre superstiti che seguitavano a correre nella stessa direzione in cui erano partiti, puntando verso il monte dell'albero di Mezzana. Ci eravamo ormai portati fra loro e i canotti, e così noi quattro ci sedemmo per riprendere fiato, mentre Long John ci raggiungeva lentamente, asciugandosi il viso. «Grazie di cuore, dottore», disse. «Siete arrivato proprio al momento giusto per me e per Hawkins. E così sei tu, Ben Gunn», aggiunse. «Beh, sei un tipo simpatico, non c'è che dire». «Io sono Ben Gunn, sono», rispose l'abbandonato, divincolandosi come un'anguilla per l'imbarazzo, e aggiunse, dopo una lunga pausa, «Voi come state, signor Silver? Benissimo, grazie, direte voi». «Ben, ben», mormorò Silver, «pensare che sei stato tu a farmela». Il dottore spedì indietro Gray a prendere uno dei picconi abbandonati dagli ammutinati nella loro fuga, e poi, mentre scendevamo agevolmente verso il luogo dove si trovavano le barche, riferì in poche parole quanto era accaduto. Fu un racconto che interessò immensamente Silver, e Ben Gunn, l'abbandonato semi-idiota, ci fece la parte dell'eroe, dal principio alla fine. Era stato Ben a trovare lo scheletro nelle sue lunghe peregrinazioni per l'isola, Ben a spogliarlo, Ben a trovare il tesoro, Ben a dissotterrarlo, era il manico del suo piccone quello che giaceva nello scavo, Ben a portarlo a spalla in molti faticosi viaggi dal piede del grande pino alla grotta che abitava sulla montagna dai due picchi all'angolo nord-est dell'isola, e là era rimasto immagazzinato al sicuro fin da 2 mesi prima dell'arrivo dell'Hispaniola. Quando il dottore gli aveva strappato il segreto il pomeriggio dell'attacco e aveva visto la mattina seguente l'ancoraggio deserto, era andato da Silver. Gli aveva dato la carta ormai inutile, dato i viveri perché la grotta di Ben Gunn era largamente fornita di carne di capra salata da lui stesso, dato ogni e qualunque cosa pur di ottenere la possibilità di andarsene al sicuro dal fortino alla montagna dai due picchi, liberarsi dalla malaria e mettere sotto custodia il tesoro. Quanto a te, Jim, mi piangeva il cuore, ma ho fatto quel che credevo meglio per quelli che erano rimasti fedelmente al loro dovere. Se tu non eri uno di loro, di chi poteva essere la colpa? Quella mattina, intuendo che io sarei stato coinvolto nell'atroce delusione che aveva preparato ai ribelli, era corso a grande velocità alla grotta e, lasciato il cavaliere a guardia del capitano, aveva preso Gray e l'abbandonato ed era partito, tagliando diagonalmente l'isola per trovarsi nei pressi del pino. Presto però si era accorto che la nostra brigata l'aveva preceduto e Ben Gunn, lesto nella corsa, era stato spedito avanti perché facesse del suo meglio da solo. A lui, poi, era venuto in mente di agire sulla superstizione dei suoi antichi compagni di bordo, e ci era riuscito tanto bene che Gray e il dottore erano arrivati e si erano posti in agguato prima dell'arrivo dei cercatori del tesoro. Ah, disse Silver, è stata per me una fortuna che ci fosse lì Hawkins. Voi, dottore, avreste lasciato fare a pezzi il vecchio John, senza dedicargli nemmeno un pensiero. Proprio così, replicò allegramente il dottore. Nel frattempo avevamo raggiunto le imbarcazioni. Il dottore con il piccone ne demolì una e poi imbarcammo tutti nell'altra e ci dirigemmo costeggiando verso la baia nord. Fu un tragitto di 8 o 9 miglia. Silver, quantunque fosse pressoché esausto, fu messo a un remo, anche lui come gli altri, e scivolammo veloci sopra un mare liscio. Non tardammo a passare lo stretto e doppiamo il capo sud-est dell'isola, intorno al quale, 4 giorni prima, avevamo rimorchiato la Hispaniola. Nell'oltrepassar la montagna dai 2 picchi, scorgemmo la nera apertura della grotta di Ben Gunn e una sagoma d'uomo in piedi appoggiata a un moschetto. Era il cavaliere e noi gli sventolammo un fazzoletto mandandogli 3 urrà, ai quali si unì, non meno calda delle altre, la voce di Silver. 3 miglia più in là, proprio all'imboccatura della baia nord, incontrammo l'Hispaniola che se ne stava andando da sola. L'ultima marea l'aveva sollevata e se ci fosse stato lì un buon vento o un forte riflusso, come nell'ancoraggio sud, non l'avremmo mai più ritrovata o l'avremmo trovata incagliata, senza rimedio. Così com'era, il danno era poco all'infuori della distruzione della vela maestra. Fu predisposta un'altra ancora che prese fondo in 1,5 braccia d'acqua. Poi ci mettemmo ai remi fino alla baia del Rum, che era il punto più vicino alla grotta di Ben Gunn. Dopodiché Gray, remando da solo, ritornò con la scialuppa sulla Hispaniola per passarci la notte di guardia. Un dolce pendio saliva dalla baia all'entrata della grotta. In cima ci venne incontro il cavaliere. Con me fu cordiale e gentile, non dicendo nulla sulla mia scappata, né in biasimo né in lode. Al riguardoso saluto di Silver, il sangue gli affluì un poco sul viso. «John Silver!» disse. «Siete uno straordinario mascalzone e impostore! Un impostore mostruoso, caro il mio signore! Mi è stato chiesto di non farvi processare. Ebbene, acconsento. Ma i morti, signore, pendono dal vostro collo come tante macine! Grazie della vostra bontà!» «Signore», rispose Long John, rinnovando il saluto. «E osate ringraziarmi?» sbottò il cavaliere. «È una grossa infrazione ai miei doveri. Levatevi di mezzo!» Dopodiché entrammo tutti nella grotta. Era un locale vasto, ben arieggiato, con una piccola sorgente e una pozza d'acqua limpida su cui pendevano le felci. Il pavimento era di sabbia. Davanti a un gran fuoco stava coricato il capitano Smollett e in un angolo remoto, debolmente rischiarato dalla vampa, intravidi grandi mucchi di monete e cataste quadrangolari di lingotti d'oro. Era quello il tesoro di Flint che eravamo partiti a cercare così da lontano e che era già costato la vita a 17 uomini della Hispaniola. Quanto fosse costato ammassarlo? Quanto sangue e quanto dolore, quante belle navi affondate, quanti valorosi marinai costretti bendati a percorrere l'asse, quanti colpi di cannone, quante vergogne, quante menzogne e crudeltà, forse nessun uomo vivente era in grado di raccontarlo. Ce n'erano però ancora 3 su quell'isola: Silver, il vecchio Morgan e Ben Gunn. 3, ognuno dei quali aveva avuto la sua parte in quei delitti, nello stesso modo in cui ognuno aveva vanamente sperato di ottenere parte del premio. «Entra, Jim», disse il capitano. «Tu sei un buon ragazzo, a tuo modo, Jim, ma non credo che mai più né tu ed io ci metteremo per mare insieme. Sei un ragazzo molto, troppo viziato per me». «Toh, siete voi, John Silver? Cosa diavolo vi porta qui, marinaio?» «Torno al mio dovere, signore», rispose Silver. «Ah!» disse il capitano. E fu tutto. Che razza di cena quella sera! Circondato da tutti i miei amici. E che cuccagna con la carne salata di Ben Gunn. Qualche ghiottoneria e una bottiglia di vino vecchio della Hispaniola. Gente più allegra e felice di noi, direi, che non ce ne fosse mai stata. E c'era Silver, seduto in disparte, quasi fuori dai riflessi del fuoco, che però mangiava a quattro palmenti, pronto a farsi avanti quando occorresse qualcosa, e perfino a unirsi, come niente fosse, alle nostre risate. Lo stesso blando, compito, ossequioso marinaio del viaggio d'andata. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.